Capitolo 31, 20 marzo 1824. Il momento che tanto temevo è arrivato e Arthur è partito. Mi ha detto di volersi fermare a Londra solo per poco e poi spostarsi nel continente. Io però non lo aspetto prima che siano trascorse molte settimane. Ho capito che i suoi giorni sono settimane, le sue settimane sono mesi interi. Ero pronta ad accompagnarlo, ma poco prima del giorno stabilito per la partenza mi concesse, o meglio, mi esortò ad andare a far visita a mio padre, che è molto malato, e a mio fratello, particolarmente triste sia per quella malattia, sia per ciò che l'ha causata e che non vedo dal giorno del battesimo di nostro figlio, quando è venuto per fargli da padrino insieme al signor Hargrave e alla zia. Non volendo abusare della sua bontà nell'avermi dato il permesso di andare, non mi fermai a lungo, ma quando rientrai a Grassdale, lui se n'era già andato. Mi lasciò scritto un messaggio per giustificare tanta premura, fingendo che ci fosse stata un'emergenza di qualche tipo che l'aveva costretto a partire per Londra, senza aspettarmi. Aggiunse di non disturbarmi a raggiungerlo, dato che comunque si sarebbe fermato poco in città e non ne sarebbe valsa la pena. Anche considerando, diceva, che viaggiare da solo gli costava meno della metà che se l'avessi accompagnato io, ed era quindi preferibile rimandare la cosa di un altro anno, in attesa che i nostri affari fossero più solidi, cosa di cui per l'appunto voleva occuparsi. Era la verità? O si era inventato tutto per evitare che il suo viaggio alla ricerca del piacere fosse limitato dalla mia presenza? È orribile dubitare dell'onestà delle persone che ami, ma dopo tanti inganni e testimonianze di indifferenza ai valori, come posso prestar fede a una scusa tanto inverosimile? L'unica speranza che mi resta è che prima di partire mi aveva detto che quando fosse tornato a Londra o a Parigi avrebbe cercato di moderarsi nelle trasgressioni, per non perdere la capacità di divertirsi davvero. Aveva aggiunto che non ambiva a vivere chissà quanto a lungo, ma che desiderava fino all'ultimo potersi godere la vita. Per questo voleva fare economia, perché temeva di non essere più l'uomo di un tempo e, malgrado fosse tanto giovane, aveva trovato tra i suoi riccioli rossi qualche capello bianco. Era anche più grasso di quanto desiderasse, aveva detto, ma quello per via degli agi e dell'ozio in cui viveva. A parte questo, gli sembrava di essere forte e in salute come sempre. Certo, ma chissà cosa ne sarebbe stato di lui dopo un'altra stagione come la precedente, tanto folle e sfrenata. Proprio così mi aveva detto, con quella luce maliziosa negli occhi che una volta amavo tanto, e quella risata allegra e bassa che mi aveva sempre scaldato il cuore. Di sicuro queste riflessioni peseranno più dei miei consigli e staremo a vedere se sapranno proteggerlo da se stesso, poiché non mi resta altra speranza. 30 luglio. È tornato da 3 settimane, decisamente più in salute dell'altra volta, ma di umore pessimo. O forse mi confondo e sono diventata io meno paziente e brava a tollerarlo. Sono stufa della sua prepotenza, del suo egoismo e della sua insanabile perversione. Quanto vorrei poter usare una parola meno dura. Io non sono un angelo e la parte peggiore di me insorge. La settimana scorsa è morto mio padre e Arthur ha accolto la notizia con una certa irritazione, solo perché temeva che la cosa avrebbe messo a rischio il suo benessere personale. Quando gli ho detto che avevo intenzione di mettermi a lutto, ha gridato: "Io odio il nero!" E va bene, portalo se è necessario salvare le apparenze, però voglio sperare che tu non ritenga opportuno intonare anche il tuo viso e la tua condotta a quel che indossi. Non vedo per quale motivo dovresti darti pena di piangerlo tanto e io di subirne le conseguenze. Non era che un vecchio, un estraneo per entrambi, che ha deciso di morire perché beveva troppo. Ecco, ora piangi, ebbene, sarà una posa. Mi rifiutò il permesso di andare al funerale o di raggiungere il povero Frederick per qualche giorno e tenergli un po' di compagnia. Non era affatto necessario e trovava assurdo anche che io glielo chiedessi. Chi era in fondo mio padre per me? Non l'avevo visto che una sola volta da quando ero bambina e sapevo che per lui non contavo nulla. Anche mio fratello era poco più di un estraneo. E poi, aggiunse abbracciandomi, io non posso stare senza di te neppure un giorno, Helen, tesoro. E come hai fatto allora tutti questi giorni a starmi lontano? Ma ero lontano, ora invece sono a casa. Tu sei la dea del mio focolare e la casa senza di te mi sarebbe insopportabile. Allora servo al tuo benessere. Eppure non è quel che mi hai detto quando mi hai incoraggiata ad andarmene solo per poter partire senza di me. Gli ho detto di scatto. Prima ancora di aver finito di parlare me ne ero già pentita. Era un'accusa grave. Se era infondata l'avrebbe presa come un insulto. Se invece era vera era troppo umiliante tirarla fuori così. Eppure mi sarei decisamente potuta risparmiare questa severità di giudizio nei miei confronti, poiché lui, dal canto suo, non si sentì offeso né indignato, non tentò di negare né giustificarsi, reagì, invece, con una risatina, come se trovasse tutta la situazione molto divertente. Di certo quest'uomo finirà per guadagnarsi il mio odio. E dato che tu, bella fanciulla, vai fermentando, sappi che il tuo uomo si finirà la birra. È una strofa da The Country Lass di Robert Burns. La berrò, sì, fino all'ultima goccia, e solo io saprò quanto la trovo amara. 20 agosto. Siamo tornati a una situazione che ormai conosco bene. Arthur è tornato in condizioni normali e alle sue solite abitudini, mentre io ho capito che la cosa migliore da fare è non guardarsi indietro né avanti. Vivere nel presente, almeno per quel che concerne lui. Amarlo quando mi riesce. Sorridere, se posso, quando sorride lui. Mostrarmi di buon umore se anche lui è di buon umore. E se non lo è, provare a tirarlo su. Nella peggiore delle ipotesi, cercare di sopportarlo, giustificarlo, perdonarlo. E se proprio non riesco, evitare che i miei cattivi sentimenti aggravino i suoi. Pur assecondando e assistendo a tutte le sue più gravi trasgressioni, fare insomma del mio meglio per sottrarlo al peggio. Non resteremo ancora a lungo da soli, poiché a breve dovrò ospitare il medesimo gruppo di amici che avevamo invitato qui anche 2 autunni fa, più il signor Hattersley, e su mia insistenza anche sua moglie e sua figlia. Sono così felice di vedere Millicent con la sua bambina. A questo punto avrà più di un anno e sarà una buona compagnia per il mio Arthur. 30 settembre. I nostri ospiti sono qui già da un paio di settimane, ma non ho ancora avuto modo di scrivere niente su di loro. Lady Lowborough proprio non riesce a starmi simpatica, e non solo per una questione di rancore personale, è lei che disapprovo, in quanto donna, completamente. Per quanto mi è consentito dalle regole dell'ospitalità, cerco il più possibile di evitarla, sebbene, quando siamo insieme, riusciamo a comportarci in modo educato e, da parte sua, persino cordiale. Per carità, potrebbe anche risparmiarselo. È come tenere in mano rose canine e biancospini, dai colori così brillanti, così soffici al tocco, anche se sai che sotto ci sono delle spine che di tanto in tanto senti e sei tentato di rompere stringendole forte, ma a farne le spese saranno le tue povere dita. Ad ogni modo, non ho notato niente di sgradevole o preoccupante nel modo in cui Annabella si comporta con Arthur. I primi giorni mi è parsa ansiosa di attirare la sua attenzione e anche lui ha notato questi sforzi. L'ho visto spesso sorridere tra sé, compiaciuto dalle sue mosse, ma a onor del vero devo riconoscere che le frecce di Lady Lowborough gli cadevano accanto senza riuscire mai a colpirlo. I sorrisi più maliziosi, gli sguardi più sdegnosi venivano tutti recepiti da lui con lo stesso disinteressato buon umore. Finché ha rinunciato lei stessa a darsi tanta pena, vedendo quanto fosse impermeabile ed è diventata a sua volta completamente distaccata. E la cosa non ha offeso Arthur, mi è parso, né lei ha fatto più altri tentativi. Tutto va al meglio, quindi, ma con Arthur non posso mai dirmi pienamente soddisfatta. Da quando l'ho sposato non ho mai, nemmeno per una sola volta, saputo che significato abbia la frase «troverete nella calma e nella fiducia il vostro riposo». Quei due uomini odiosi, Grimsby e Hattersley, hanno annullato tutti i miei sforzi per combattere la sua passione per il vino. Non passa giorno che non lo incoraggino a berne oltre i limiti del comune buonsenso, quando non addirittura a eccedere senza vergogna. La seconda sera che erano qui, non la dimenticherò mai. Stavo giusto uscendo con le altre signore dalla sala da pranzo, prima che ci chiudessero la porta, quando ho sentito Arthur gridare: «Che ne dite, amici, se adesso facciamo le cose come si deve?» Millicent mi ha guardato di traverso, come se fosse in mio potere scoraggiare la cosa, ma subito il suo sguardo è cambiato quando ho udito Hattersley rispondere da dietro la porta: «Ci sto, ordina altro vino, avanti, che quello che abbiamo non è neppure la metà di quello che basta.» Ci Ci siamo spostate in soggiorno e dopo poco ci ha raggiunte anche Lord Loboraf. Perché tanto presto? Gli ha detto la moglie in tono sgarbato. Sai che non bevo, Annabella, ha risposto lui con aria seria. E con questo potevi restare di là, con loro? Che figure ci fai a stare sempre in compagnia delle signore? Mi lasci senza parole. E lui le ha rivolto uno sguardo stupito e amaro. È andato a sedersi in poltrona, soffocando un sospiro. Si è morso le labbra livide e ha abbassato lo sguardo a terra. Avete fatto benissimo a lasciarli, Lord Loboraf, gli ho detto io, e spero anzi che ci onorerete ancora e spesso della vostra compagnia. Se Annabella sapesse quanto è preziosa la vera saggezza e quanto sono miserabili la follia e la sregolatezza, non parlerebbe certo in questo modo. Lui ha alzato lo sguardo su di me mentre parlavo, fissandomi con vaga sorpresa, ma con un'espressione piuttosto assente. Poi l'ha posato su sua moglie. Se non altro, so quanto preziosi un cuore appassionato e uno spirito virile e fiero siano, ha detto lei. Così dicendo mi ha guardato con aria di trionfo, come a voler significare cosa che non si può certamente dire di te, e ha lanciato al marito un'occhiata di sprezzo che lo ha visibilmente trafitto. Ero molto seccata, ma di sicuro non potevo farle una partaccia né manifestare la mia solidarietà a suo marito senza offenderlo. Non potevo far altro, se proprio volevo obbedire al mio istinto, che offrirgli una tazza di caffè, servendo prima lui delle signore, per compensare con il mio grande rispetto il disprezzo di sua moglie. Mi ha preso la tazza dalle mani, quasi controvoglia, poi, senza aver bevuto, l'ha posata sul tavolo e ha detto: «Ebbene, Annabella, se la mia presenza ti è così sgradita, te ne libero subito». «Torni di là con loro, quindi?» gli ha chiesto lei con aria indifferente. No, ha risposto con estrema durezza, non torno di là con loro e non lo farò per amor tuo né per nessun'altra tentazione, ma non temere, non ti importunerò più costringendoti a sopportare la mia compagnia. Ed è uscito. Ho sentito l'ingresso aprirsi e poi richiudersi e dalle tende l'ho visto avviarsi per una passeggiata nel parco, incontro a un tramonto grigio e umido. Non è mai bello assistere a scene simili e il nostro piccolo gruppo rimase in silenzio per un po'. Millicent si teneva impegnata giocherellando con il cucchiaino per nascondere il suo disagio, mentre Annabella, forse per celare il suo imbarazzo, ha commentato il tutto con una risata sprezzante e si è messa a bere il caffè. Alla fine le ho detto: Annabella, meritereste che Lord Loboraf tornasse agli antichi vizi da cui tanto faticosamente è riuscito a liberarsi e che per poco non l'hanno rovinato. Forse in quel caso arrivereste a pentirvi. Oh, niente affatto, cara. Se il mio signore decidesse di avvelenarsi tutti i giorni, non mi dispiacerebbe affatto. Sarebbe un modo per liberarmi di lui ancora prima. Ma Annabella, ha esclamato Millicent, come puoi dire una cosa tanto crudele? Sarebbe davvero una giusta punizione se la provvidenza decidesse di accontentarti e tu provassi cosa significa. Poi si è interrotta quando uno scroscio di risate ci ha raggiunte dalla sala da pranzo. Su tutte spiccava la voce di Hattersley, che ho individuato anche io, pur non conoscendolo tanto bene. Che io provassi cosa significa vivere quel che vivi tu, immagino, le ha chiesto allora Lady Loboraf, fissando con un sorriso crudele l'espressione amara di sua cugina. Lei non le ha risposto, ma si è voltata dall'altra parte per asciugarsi una lacrima. A quel punto si è aperta la porta ed è entrato il signor Hargrave, rosso in volto e con gli occhi scuri insolitamente accesi. «Oh, come sono contenta di vederti qui, Walter!» gli ha gridato sua sorella. «Perché non porti di qua anche Ralph?» «È impossibile, Millicent!» le ha risposto lui allegro. È stata una fatica anche per me venir via. Ralph cercava di trattenermi a forza, Huntington mi ha minacciato di togliermi per sempre l'amicizia e Grimsby, il peggiore di tutti, ha cercato di indurmi a provare vergogna per essere tanto virtuoso, facendo battute e allusioni che sapeva mi avrebbero colpito, e quindi, signore, farete meglio ad accogliermi con tutti gli onori, considerando cosa ho dovuto passare pur di godermi la vostra compagnia. E ora, ditemi, Helen, non trovate che sia un bell'uomo? mi ha sussurrato Millicent, gonfia di orgoglio per suo fratello e distratta per un attimo da altri pensieri. Lo sarebbe forse se la luce nei suoi occhi e il colore delle sue guance fossero naturali. Guardatelo nuovamente tra qualche ora. Il gentiluomo è venuto subito a sedersi accanto a me e mi ha chiesto un caffè. Una rappresentazione coerente del cielo, secondo me, ha detto mentre gli offrivo la sua tazza. Adesso mi trovo in paradiso, ma per raggiungerlo ho sfidato il fuoco e il diluvio. Ralph Hattersley, all'ultimo, si è persino messo davanti alla porta per dirmi che se volevo uscire sarei dovuto passare sul suo corpo. Per giunta anche piuttosto robusto. Grazie al cielo non era l'unica porta e sono riuscito a scappare passando di lato per il vestibolo del cameriere, lasciando Benson impegnato a lucidare l'argenteria senza parole. A quel punto Hargrave è scoppiato a ridere e con lui sua cugina, mentre io e la sorella siamo rimaste chiuse in un severo silenzio. «Vi chiedo scusa per la mia superficialità, signora Huntington», mi ha detto poi più serio. «Voi non siete abituata a tanto. Avete una mente delicata che ne viene colpita profondamente. Tuttavia, ho pensato a voi nel mezzo dei bagordi e ho cercato di far ragionare il signor Huntington, ma è stato inutile. Pare che sia determinato a divertirsi fino in fondo stasera. Inutile tenere il caffè in caldo per loro. Forse ci raggiungeranno per il tè. Nel frattempo, però, voglio fare del mio meglio perché non pensiate a loro e per non pensarci neppure io. Già, non voglio pensare nemmeno al mio caro Huntington, perché quando mi rendo conto di quanto influisca sulla felicità di una persona tanto infinitamente superiore a lui e a come si comporta, lo odio dal profondo del cuore. Non dovete dirlo a me, gli ho risposto. Egli è parte di me, per quanto sregolato, e se offendete lui, offendete anche me. Vi chiedo scusa. Preferirei morire che offendervi, però adesso basta parlare di lui, ve ne prego. Ha cambiato completamente argomento e ha parlato diffusamente del più e del meno, facendo del suo meglio per intrattenere il nostro piccolo gruppo. Si è mostrato più brillante del solito mentre conversava, rivolgendosi ora solo a me, ora a tutte e tre. Annabella ha partecipato attivamente a ogni discorso, mentre io ero devastata, in particolare quando attraverso le tre porte della sala e dell'anticamera arrivavano gli scoppi di risate e l'eco di canzoni senza senso che colpivano le mie orecchie e mi infilzavano le tempie. Anche Millicent condivideva il mio stato d'animo e la serata per noi è stata interminabile, malgrado Hargrave si stesse sforzando di fare in modo che così non fosse. Ci hanno raggiunto alla fine, ma dopo le 10, quando il tè, che pure avevamo rimandato di oltre mezz'ora, era già finito. Avevo aspettato con trepidazione che arrivassero, eppure ho sentito come un tuffo al cuore quando ho udito il modo scombussolato in cui si avvicinavano. Millicent è diventata di colpo pallida e si è quasi alzata dalla sedia quando Hattersley è entrato nella stanza sparando un'imprecazione dietro l'altra, mentre Hargrave cercava di arginarlo ricordandogli che era in presenza delle signore. «Ah, bravo che mi rammenti delle signore, pavido traditore!» gli ha gridato mostrandogli il grosso pugno. «Se non fosse per loro ti abbatterei in un colpo e darei il tuo corpo in pasto agli uccelli del cielo e ai fiori di campo». Poi ha preso una sedia ed è andato a mettersi accanto a Lady Lowbrough, rivolgendosi a lei con una serie di assurdità e di sfacciataggini. A lei sembrava divertita più che offesa, ma ostentava risentimento mentre gli teneva testa con risposte provocanti e allegre. Il signor Grimsby si è seduto vicino a me al posto che Hargrave aveva liberato al loro arrivo e mi ha annunciato in tono serio di volere una tazza di tè. Arthur è andato invece a mettersi accanto alla povera Millicent, avvicinandosi con il viso al suo anche mentre lei cercava di farsi indietro. Non faceva lo stesso baccano di Hattersley, ma era tutto rosso e rideva di continuo. Mi vergognavo di vederlo in quello stato, ma per fortuna stava rivolgendosi alla sua compagna a bassa voce, così che solo lei poteva sentire quel che diceva. Doveva trattarsi di qualche terribile assurdità, perché ho notato che lei era molto infastidita. Poi è arrossita. E infine si è alzata di scatto ed è venuta a sedersi sul divano dietro di me. Evidentemente Arthur aveva solo voluto infastidirla, perché quando si è accorto di averla costretta ad allontanarsi, è scoppiato a ridere, senza freni. Poi ha avvicinato la sedia al tavolo, ci si è appoggiato con la testa tra le braccia incrociate e ha ricominciato a ridere, sommessamente. Infine, stanco di quel passatempo, ha alzato la testa e ha chiamato Hattersley per mettersi a litigare con lui su qualche cosa che non ho capito. Sciocchi che non sono altro, è stato il commento di Grimsby, il quale nel frattempo aveva continuato a parlare mentre io, presa dallo stato in cui versavano gli altri due, e in particolare Arthur, non gli avevo affatto prestato ascolto. Avete mai sentito simili sciocchezze, signora Huntington? Mi ha chiesto poi. Io mi vergogno per loro. Non sono in grado di bere una bottiglia di vino in due senza che dia loro la testa. State versando la panna nel piattino, signor Grimsby? Cosa? Ah, già, ma certo, qui siamo al buio. Hargrave, per l'amor del cielo, vai a smoccolare quelle candele. Non serve smoccolarle, sono di cera, gli ho fatto presente. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce, ha detto allora Hargrave, sorridendo e citando Matteo. Grimsby ha liquidato quel commento con un gesto della mano ed è tornato a rivolgersi a me, biascicando come prima e con la medesima esitazione. Come vi stavo dicendo, signora Huntington, sono degli smidollati, incapaci di bere una bottiglia in due senza subirne gli effetti. Io invece, che stasera ho bevuto 3 volte tanto, come vedete, sono perfettamente sobrio. Voi lo riterrete strano, ma ora ve lo spiegherò. Loro, non voglio fare nomi, ma voi avete capito a chi mi riferisco, hanno un cervello già debole di suo, e l'alcol lo indebolisce ancora di più, causando una confusione che finisce per intossicarli. Il mio cervello, al contrario, che è più robusto, è capace di assorbire l'alcol senza effetti visibili. Credo che troverete alcuni effetti visibili nel vostro tè, lo ha interrotto il signor Hargrave, considerando la quantità di zucchero che ci avete messo. Non vi siete limitato a una sola zolletta, infatti, ma ce ne avete messe dentro 6. Dite davvero? Gli ha chiesto allora il filosofo, tirando sul cucchiaino dalla tazza con alcuni frammenti di zucchero che ancora non si erano sciolti, che lo confermavano. Ecco, vedete, signora? Questo è quel che succede quando si è distratti, quando si pensa troppo e si è al tempo stesso impegnati nelle nostre più comuni occupazioni quotidiane. Se io fossi come una persona normale, rivolto all'esterno e non un filosofo rivolto all'interno, non avrei guastato questa tazza e non dovrei disturbarvi per chiedervene un'altra. Se mi date il permesso di farlo, la verserò nei fondi del tè. Era la zuccheriera, signor Grimsby. Ora avete guastato anche quella. Vi prego, suonate e chiedete che portino altro zucchero, perché finalmente è arrivato anche Lord Loboraf, che spero voglia unirsi a noi per un tè. Loboraf non ha detto una parola. Si è limitato a rispondere al mio invito con un cenno del capo. Hargrave intanto si è offerto di chiedere che portassero altro zucchero, mentre Grimsby deplorava il suo sbaglio, cercando di dimostrare che era stata colpa della scarsa illuminazione e dell'ombra della teiera. Lord Loboraf era entrato già da qualche minuto, ma nessun altro, a parte me, l'aveva visto in piedi accanto alla porta, che guardava tutti con aria torva. Si è avvicinato ad Annabella, che aveva ancora accanto Hattersley, il quale tuttavia in quel momento non le badava più perché era troppo impegnato a ingiuriare il padrone di casa. Dunque, Annabella, a quali di questi spiriti virili e fieri ti piacerebbe che somigliassi? Le ha chiesto, chinandosi su di lei. A tutti noi dovete somigliare, santa pace, ha gridato Hattersley, tirandosi in piedi di scatto e prendendogli violentemente un braccio. Huntington, l'ho preso! Venite ad aiutarmi, che io sia dannato corpo e anima se non riesco a farlo ubriacare a dovere. La pagherà per tutto!» A quel punto c'è stato uno scontro imbarazzante in cui Loboraff, con aria grave e pallido in volto, faceva del suo meglio per divincolarsi dalla presa di quel folle nerboruto che voleva a ogni costo portarlo fuori dalla stanza. Io cercavo di chiedere ad Arthur di prendere le difese del nostro ospite, mentre lui non riusciva a fare nient'altro che ridere. «Huntington, idiota, venite a darmi una mano!» Attersley era a sua volta fiaccato dai suoi eccessi. «Vi auguro buona fortuna, Huntersley. Pregherò per voi, perché non potrei fare altro neppure se volessi. Sono troppo stanco, oh oh!» E così dicendo si portò le mani ai fianchi, lamentandosi ad alta voce. «Annabella, dammi una candela», ha detto Loboraff alla moglie, con Huntersley che tentava di tirarlo via dallo stipite della porta al quale si era avvinghiato con disperazione. «Non mi farò coinvolgere nei vostri bagordi», gli ha risposto lei con molta freddezza, «e non vedo come tu possa chiedermi una cosa simile». Io invece ho preso una candela e gliel'ho data. Lui l'ha tenuta sulle mani che Huntersley gli stringevano intorno alla vita affinché questi, ruggendo come una belva, non l'ha lasciato andare. Loboraff è sparito, suppongo in camera sua, dato che nessuno l'ha più visto fino al mattino dopo. Huntersley si è gettato sull'ottomana vicino alla finestra in una pioggia di bestemmie. Con la porta finalmente libera, Millicent ha tentato di andarsene per allontanarsi da una scena tanto umiliante per suo marito, ma lui l'ha chiamata. «Cosa c'è, Ralph?» gli ha risposto lei raggiungendolo con reticenza. «Voglio che tu mi dica cos'hai!» le ha detto trascinandosela in grembo. «Perché stai piangendo, Millicent? Dimmelo!» «Non sto piangendo». «Come no? Come ti permetti di mentirmi?» le ha gridato, togliendole bruscamente le mani dal volto. «Non sto piangendo», ha ripetuto lei affranta. «Ma poco fa sì, però, e io voglio che tu mi dica perché. Dimmelo!» «Ralph, lasciami davvero. Ti rammento che non siamo a casa nostra». «Non me ne importa, devi rispondere alla mia domanda!» E così ha continuato a tormentarla, strattonandola e stringendole le braccia con le sue mani forti senza alcuna pietà. «Non lascerete che tratti in questo modo vostra sorella», ho detto io a Hargrave. «Forza, Huntersley, adesso lasciate stare mia sorella», ha detto quindi il gentiluomo avvicinandosi a quella strana coppia e cercando di staccare la mano di lui dal braccio di lei. Per tutta risposta, un forte colpo al petto per poco non l'ha fatto finire per terra. «E questo è per la vostra sfacciataggine, così imparate a non immischiarvi!» «Se non foste sbronzo come un animale, vi sfiderei!» gli ha detto Hargrave a quel punto, pallido e ansimando per la forza dei sentimenti e per l'effetto del colpo che aveva ricevuto. «Andatevene al diavolo!» gli ha risposto il cognato. «E ora, Millicent, devi dirmi perché stavi piangendo!» «Te lo dirò in un altro momento, quando saremo da soli!» «Devi dirmelo, adesso!» ha insistito lui con un'altra spinta e un'altra stretta forte che per poco non le ha strappato un gemito di dolore. «Ve lo dico io, signor Huntersley, stava piangendo per la vergogna e per l'umiliazione per voi, perché non sopporta di vedervi in queste condizioni!» sono intervenuta. «Andate al diavolo, signora!» mi ha detto meravigliato della mia audacia. «Non si tratta affatto di questo, non è vero, Millicent?» Lei non parlava. «Rispondi, bambina!» «Non posso risponderti adesso!» lo ha supplicato lei. «Se sei in grado di dire non posso risponderti adesso, saprai anche pronunciare un sì o un no, forza!» «Sì!» ha detto lei piano, abbassando lo sguardo e arrossendo per quella penosa ammissione. «Maledetta sfacciata sgualdrina!» le ha gridato allontanandola con tale forza da farla cadere su un fianco. Si è rimessa in piedi da sola prima che suo fratello e io avessimo il tempo di andare ad aiutarla ed è uscita di corsa dalla stanza per andare, credo, in camera sua. Subito dopo è toccato ad Arthur, che nel frattempo si era senz'altro goduto la scena trovandola molto spassosa. «E voi, Huntington!» gli ha gridato. «Non crediate che vi permetterò di starvene lì a fissarmi ridendo come un cretino!» «Huntersley!» gli ha risposto Arthur. «Voi mi fate morire!» Non nel senso che credete voi, però. Vi strapperò il cuore se insistete a innervosirmi con le vostre risate. Come? Continuate? Ora vi concio per le feste. Ha preso un panchetto e l'ha tirato con forza verso Arthur, però ha sbagliato mira e Arthur è rimasto dov'era con le lacrime che gli scendevano dagli occhi per il troppo ridere. Una scena mortificante. Hattersley a quel punto ha tentato di zittirlo, imprecando e bestemmiando, ma niente. Allora ha preso dei libri e ha iniziato a tirarli uno dopo l'altro addosso all'uomo che l'aveva tanto irritato. Arthur intanto restava fermo lì e rideva sempre di più, finché Hattersley non gli si è scagliato addosso come un pazzo. L'ha preso per le spalle, gli ha dato un violento scossone che lo ha fatto ridere e poi gridare. Di quella scena non ho visto altro. Mi pareva di essere rimasta fin troppo a lungo a testimoniare la spudoratezza di mio marito e me ne sono andata. Annabella e gli altri mi avrebbero seguita quando meglio avessero creduto. Non mi sono messa a letto, però. Ho dato a Rachel il permesso di andare a dormire e ho iniziato a camminare su e giù per la camera, sconvolta da quanto era accaduto, angosciata da quanto non era ancora accaduto e domandandomi a che ora mi avrebbe raggiunto quell'infelice. È arrivato alla fine. Salendo per le scale, con l'aiuto di Grimsby e Hattersley, a loro volta malfermi sui loro passi, ma ancora in grado di sghignazzare e prenderlo in giro a voce tanto alta da farsi sentire da tutta la servitù. Lui invece non rideva più. Tali erano la nausea e il torpore, ma preferisco non dire altro. Sono capitate diverse altre scene altrettanto imbarazzanti. Con lui non ne parlo, poiché a questo punto sarebbe più un male che un bene, ma gli faccio capire in molti modi quanto disapprovo certi comportamenti. Lui mi promette sempre che non si ripeterà, eppure ho paura che stia smarrendo quel po' di moderazione e amor proprio che aveva. Un tempo si sarebbe vergognato di comportarsi così, se non altro davanti a persone che non fossero i soliti compagni di Baldoria. Il suo Hargrave dimostra una moderazione che vorrei avesse anche lui. Non eccede mai, oltre la quantità sufficiente a renderlo allegro, e a parte Lord Loboraf, che ancora più saggiamente si astiene del tutto e si alza da tavola anche prima di noi, è sempre il primo ad allontanarsi dalla sala da pranzo. Eppure, da quando Annabella l'ha offeso in quel modo, non è mai venuto in salotto per primo. Preferisce trattenersi in biblioteca e io faccio sempre in modo di fargliela trovare già illuminata. Oppure nelle serate di cielo limpido va a passeggiare di fuori. Ad ogni modo, credo che lei si sia ravveduta perché non ha più avuto comportamenti simili e anzi lo tratta con ogni premura e con più considerazione di quanto l'abbia mai vista fare. Associo questo cambiamento al momento in cui ha smesso di sperare di poter conquistare le attenzioni di mio marito.